Radio 24 Reportage. Animali selvatici, i nuovi vicini di casa, di Teresa Trillò. Passeggiano in città, arrivano nel pollaio di casa a caccia di galline o assediano greggi. Cinghiali, lupi e orsi, animali selvatici, possibili compagni di avventura in montagna o nei boschi, cambiano abitudini e fanno capolino in città, nei piccoli borghi o in autostrada. Anni fa, in Italia, i cinghiali erano quasi in estinzione. Oggi sono circa 1 milione e cominciano a causare danni agli agricoltori. Ogni anno, stima Coldiretti, i danni sfiorano i 100 milioni di euro. Cinghiali e lupi hanno storie che si intrecciano, dice Antonio Morabito, responsabile nazionale fauna di Legambiente. Il caso del lupo come del cinghiale non sono casi strettamente correlati, perché la crescita del cinghiale come di altri ungulati selvatici per l'abbandono delle aree interne, per una minore coltivo, diciamo presenza umana in quelle aree, per una maggiore immissione soprattutto del cinghiale per scopo venatorio, ha prodotto negli ultimi 30 anni una lenta, inizialmente poi esplosiva crescita. Oggi si stimano più di 1 milione di cinghiali in Italia, che è di fatto la preda base del lupo, quindi questo ha consentito anche la ripresa del lupo, che lentamente da un centinaio di animali oggi è arrivato ad essere stimato tra 1.400 o quasi 2.000 a seconda delle basi che si hanno di presenze, ma questo è grazie proprio a questa maggiore disponibilità di spazio e maggiore disponibilità di cibo per il lupo. Quindi queste specie, il lupo, perché poi purtroppo si preda per cibare, preda anche domestici, quindi apre diciamo difficoltà di relazione con chi è impreparato. Cinghiale, perché si porta con questi numeri importanti anche fino a ridosso alla città, e crea delle relazioni non facili da gestire se non vengono preventivamente pianificate e programmate. L'allarme cinghiali cresce anche in città, soprattutto a Roma, ma anche a Genova e in Liguria. Nella capitale i cinghiali si affacciano in centro e periferia, causando incidenti stradali anche mortali. Un cinghiale è stato addirittura avvistato e filmato in piena notte a 2 passi dal Vaticano, mentre correva a par di fiato in via Baldo degli Ubaldi. Ad attrarre i cinghiali, spiega Morabito, è la facilità di trovare cibo. In città il cinghiale ci arriva perché nelle città come Roma, come Genova, come Trieste, le aree diciamo boscate, che sono un habitat idoneo per il rifugio soprattutto del cinghiale, si insinuano fin alle prossimità o dentro le città con il sistema delle aree naturali, come Roma Natura nel caso di Roma, e qui ci sono dei corridoi che il cinghiale può usare in sicurezza, quindi usa queste vie preferenziali. Arrivato in città non ci rimarrebbe proprio, perché come è noto a tutti non va né al cinema né al teatro, ma ci rimane perché c'è troppa disponibilità di cibo in strada, cioè sia tramite rifiuti, sia in alcuni quartieri è noto che c'è gente che gli dà da mangiare, li vede con rapporto che è cresciuto così come affettivo col cane, col gatto, con le colonie feline, e diciamo quando vede questi animali non di rado lascia in strada del cibo. La disponibilità di cibo è il vero attrattore del cinghiale anche in città, e poi il rischio di avere meno predazione, perché al netto dell'incidente stradale, che non è pianificabile dal punto di vista del cinghiale, percepisce che ha meno rischi di predazione, di pericoli di aggressione. Però senza cibo il cinghiale in città non ci starebbe. Cosa fare per allontanare i cinghiali dalle città? Tante le idee: recinzioni, monitoraggio dei rifiuti, sanzioni per chi somministra cibo, sterilizzazioni, proroga della caccia o addirittura, come suggerisce qualcuno in Liguria, la caccia come materia di studio a scuola per preparare futuri cacciatori a sparare. Per gli ambientalisti, invece, l'unica strada è salvare la biodiversità. Più lupi, gli unici predatori dei cinghiali. Lupi però non molto amati. In Italia, stima il WWF, ci sono circa 1.600 lupi e ogni anno 300 esemplari vengono uccisi da bracconieri, bocconi avvelenati o accidentalmente da auto in corsa. Nel nostro paese, negli anni 70, il lupo era quasi estinto, ridotto a un centinaio di esemplari in Abruzzo e Calabria. Poi, anno dopo anno, è tornato a popolare diverse regioni e in alcune aree, come nella Maremma toscana, è scattata l'emergenza perché i lupi attaccano le greggi. Ma pecore e lupi possono vivere, spiega Marco Galaverni, biologo e ricercatore del WWF. Innanzitutto dobbiamo fare buona informazione e sfatare alcuni miti che purtroppo sono duri a morire. Il primo è il fatto che il lupo è tornato spontaneamente sulle nostre montagne e sulle nostre colline senza alcun intervento di reintroduzione da parte dell'uomo, e quindi la sua presenza è del tutto naturale e come tale deve essere accettata. E accanto a questo dobbiamo sfruttare quelle che sono le migliori conoscenze possibili nel campo della prevenzione dei danni, perché la presenza del lupo è fondamentale per gli ecosistemi, può essere anche un volano per l'economia locale con iniziative proprio alla scoperta di questa bellissima specie, però gli allevatori devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente, e il mezzo migliore sono proprio le misure di prevenzione, che possono andare, secondo dei casi, dalle recinzioni elettrificate alle recinzioni fisse, all'utilizzo di cani da guardia o una variazione dei metodi di allevamento, in modo tale da renderli più consoni con la presenza di un predatore comunque potenzialmente pericoloso per le greggi come il lupo. Ci sono tante esperienze in cui, come ad esempio quella della regione Emilia-Romagna, che hanno dimostrato come con una azione capillare di prevenzione, quindi con fondi adeguati e adeguata assistenza agli allevatori, è possibile ridurre moltissimo i danni causati dal lupo. Per quei pochi casi che non è possibile azzerare, allora gli incentivi e gli indennizi dati agli allevatori per risarcire le perdite subite sono sicuramente l'ultimo strumento necessario. La caccia al lupo scatta soprattutto in aree non protette. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, dove il lupo c'è sempre stato, bracconaggio o avvelenamenti sono più contenuti, anche perché sono un alleato contro i cinghiali. Il presidente del parco, Antonio Carrara. Spesso ci sono grandi conflittualità per piccolissime cose, probabilmente dipende dal fatto che nelle aree dove il lupo non c'è rimasto da sempre, il nostro per fortuna è un territorio di quelli dove il lupo c'è sempre stato, questi grandi elementi di conflittualità non ci sono, non esistono, dipende anche dal fatto che nelle aree protette gli indennizzi, sia alcune attività di prevenzione, per esempio la dotazione di recinzioni elettrificate, sia gli indennizzi sono abbastanza rapidi e celeri, cosa che spesso non avviene nei territori fuori dalle aree protette, perché le regioni non hanno mai soldi, risorse a sufficienza, perché i meccanismi di verifica, controllo e comunque poi di liquidazione degli indennizzi sono lunghissimi, e quindi questo è chiaro che finisce con aumentare la conflittualità in quei territori. L'emergenza lupi è arrivata anche sul tavolo del governo. Al Ministero dell'Ambiente si lavora un piano di conservazione del lupo, ma fra le tante norme ce n'è una molto contestata che prevede l'abbattimento controllato dei lupi. Una norma, reclamano a gran voce regioni ambientalisti, da stralciare, perché prima vanno valutati gli effetti di altre azioni contenute nel piano. Ehi, Gupu, vediamo cosa c'è in questo cestino della merenda. E poi c'è l'orso. Ghiotti di miele e frutta, ma anche di polli, gli orsi si avvicinano ai piccoli borghi di montagna a caccia di cibo. Due le regioni italiane dove, con molta fortuna, si può provare il brivido dell'incontro ravvicinato. In Abruzzo, nel Parco Nazionale, e in Trentino, nel Parco Adamello Brenta, ci sono due colonie di plantigradi, una cinquantina di orsi bruni in entrambe le regioni, ma di famiglie diverse. In Trentino l'orso è stato reintrodotto. Alla fine degli anni 90 c'erano solo tre maschi. Oggi rari casi di bracconaggio, più frequente registrare danni, dice Andrea Mustoni, esperto del Parco Adamello Brenta. Per l'inizio del progetto di reintroduzione pensavamo che gli orsi avrebbero fatto gli orsi, e avere degli orsi vuol dire comunque anche dover tollerare una certa quota di danni, che peraltro è minimale rispetto alle quote di danni che la stessa provincia autonoma di Trento rifonde per altre specie delle quali si parla molto di meno, come il cervo, che procura dei grossi danni sui meleti anche della Val di Non, piuttosto che il cinghiale in altre zone o altro ancora. Io direi che la coabitazione è pacifica, abbastanza pacifica, abbiamo l'evidenza di alcuni atti di bracconaggio, ma anche questo purtroppo, lo dico con grande rammarico, è una cosa normale qualora si faccia riferimento ad una gestione di un grande carnivoro come l'orso, così come anche del lupo, però in generale la convivenza è pacifica soprattutto con riferimento al tema dei danni, che viene ben tollerato comunque dalla popolazione locale, anche perché la provincia autonoma di Trento ha un attentissimo programma di rifusione dei danni stessi. Il tema più ancora che con riferimento ai danni è legato al timore che alcune persone manifestano per la presenza dell'orso, visto come un animale capace di ferire, di interagire negativamente con l'uomo. A Colle Longo, in Abruzzo, da qualche settimana la sera arriva un orso bruno marsicano, racconta la sindaca Rosanna Salucci. C'è un orso che da un mesetto più o meno è sceso nel centro abitato e quindi, diciamo, ha trovato cibo un pochino più facile rispetto alla montagna e ha fatto un po' di razzia di animali domestici, cioè di galline, tacchini, questi animali qui che ogni famiglia ha a Colle Longo. Io e i miei concittadini ho cercato un pochino di tranquillizzarli, non sminuendo ovviamente le loro preoccupazioni, perché insomma sapere che i ragazzi stanno fuori e possono incrociare loro, l'orso dà un po' magari di timore, e però sono due secoli che non si sente mai, non si è mai verificato, diciamo, che l'orso bruno marsicano avesse aggredito l'uomo. Visite continue che hanno comunque spinto la sindaca a organizzare un incontro con gli esperti del Parco Nazionale d'Abruzzo per spiegare ai 1200 abitanti del borgo come mettere in sicurezza arnie e pollai per scoraggiare l'orso e convivere in sicurezza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.